Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Questa volta mi trovo vicino a Napoli, sono a Caserta, nel nostro giro per le grandi regge della città. Caserta venne costruita sempre dal re Carlo III di Borbone, il primo grande re della dinastia borbonica, il quale aveva capito che il palazzo di città, cioè il palazzo reale, era mal sicuro. Perché? Perché era al centro della città e il popolo poteva minacciare in qualche modo il re. E poi aveva capito che Capodimonte era troppo scomodo. Tra l'altro Capodimonte aveva un piccolo difetto: non c'era l'acqua sulla collina, quindi il palazzo doveva essere alimentato spingendo l'acqua verso l'altro. Allora decise di fare una cosa che aveva visto anche a Versailles, cioè fare una Versailles italiana, dove in una meravigliosa campagna a ridosso delle colline, vicina alla città di Caserta. Ed ecco che nel 1751, identificato il suo grande architetto Luigi Vanvitelli, gli fa fare un progetto colossale, uno degli edifici più grandi del mondo. È lungo quasi 250 metri per 250, ha un incalcolabile numero di stanze, di finestre, eccetera, eccetera. E questo doveva essere appunto un palazzo simile alla reggia di Versailles. Naturalmente il re aveva pensato molto bene di tenerlo lontano da Napoli e anche lontano dal mare, per paura degli assalti. Pensate che nel 700 l'Italia era ancora colpita dal fenomeno della pirateria. Dalle coste dell'Africa c'erano queste incursioni e colpivano naturalmente le coste italiane. Il re si allontana e fa costruire questo palazzo. Io avrei voluto essere presente alla cerimonia della fondazione della prima pietra, perché pensate, il re fece schierare i soldati in modo che delineassero esattamente tutto il perimetro del palazzo, che era enorme, quindi i militari facevano praticamente la linea del palazzo, e poi lui al centro calò una piccola pietra. Non vide il palazzo completato, perché pochi anni dopo venne nominato, beato lui, re di Spagna, e quindi dovette lasciare il suo palazzo ai suoi successori, che lo completarono alla fine del Settecento e poi all'inizio dell'Ottocento.